It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 23 dicembre, bentornati e bentornate su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città, che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E ovviamente siamo al 23 dicembre, ovviamente dobbiamo aprire una casellina del nostro calendario dell'avvento, che è l'occasione per parlare del carcere in maniera particolare. Questa è stata una settimana strepitosa, vero Antonella? Perché abbiamo avuto gli auguri dal mondo del cinema e dello spettacolo. E oggi cosa abbiamo? Allora, prima di tutto, ciao a tutti, buongiorno. Oggi abbiamo Giulia. Ma Giulia di chi? Giulia di Un Posto al Sole, Caterina, ma ti rendi conto? E in realtà è Marina Tagliaferri, che è una doppiatrice ed è un'attrice, che ci invia i suoi auguri. Questo mio è un piccolo saluto, ma vuole essere un grande abbraccio a tutte le detenute e detenuti dell'Emilia-Romagna e del Dozza di Bologna. Buon Natale. E ringraziamo davvero Marina Tagliaferri. Io sono sicura che tante persone l'hanno riconosciuta in questo video e abbiamo trasmesso anche un pezzettino della sigla poco prima che parlasse lei, quindi l'avete sicuramente riconosciuta. Ma passiamo subito alle notizie di oggi. La notizia che mi ha incuriosito è questa: ripensare i luoghi della detenzione anche sotto l'aspetto della psicologia ambientale. Ebbene sì, questa notizia che leggo dall'Osservatore Romano a firma di Silvia Camisasca, perché l'urgenza di umanizzare gli spazi detentivi non può non tenere conto anche della struttura e delle forme architettoniche delle case detentive. E a dirlo sono gli sviluppi di studio nelle neuroscienze e della psicologia ambientale che suggeriscono un radicale ripensamento delle forme del carcere, in modo che possa incidere positivamente sulle sfere affettive e relazionali non solo dei detenuti, ma di tutti coloro che operano in quell'ambiente. Caterina, io, pur non essendo una neuroscienziata, ho sempre pensato che le persone che soffrono devono vivere nel bello, circondati dalla bellezza. E però a questo punto mi viene di dire lo spazio in cui è vissuta la detenzione, se non è curato, è un qualcosa che aumenta il peso, cioè aggiunge, diciamo, al concetto afflittivo della pena un carico enorme in più, o sbaglio? È quello che pensano gli studi di neuroscienze, perché una concezione afflittiva dei luoghi di detenzione non solo punisce in modo incostituzionale le persone condannate, ma anche coloro che sono incaricati della gestione degli istituti. Sto parlando del corpo di guardia, dei responsabili della presa in carico e dei volontari quotidianamente impegnati. Lo spazio, spiega il neuroscienziato Davide Ruzzon, in quanto estensione della mente, ha la facoltà di modulare le emozioni di chi avvolge come un guanto con la mano. La forma plastica dell'architettura mitiga oppure altera la percezione della rabbia, come di tutta una gamma di stati emotivi che si manifestano nelle espressioni facciali, nelle espressioni vocali oppure motorie, condizionando anche le relazioni e il benessere psicofisico. Secondo Ruzzon, dunque, la cura dell'ambiente è rivolta a prevenire l'ulteriore compromissione delle capacità psicofisiologiche e sociali dei detenuti. Sì, mi sembra piuttosto comprensibile come concetto. Quindi anche lo spazio ristretto della camera detentiva di 9 metri quadrati influirà un sacco. Sì, hai centrato il punto. Le celle di custodia, le cosiddette camere detentive, hanno non solo il problema della ristrettezza, che è quasi, anzi tolgo il quasi, claustrofobica, ma anche della luce, che spesso è scarsa, bieca, filtrata attraverso le strettorie, su scarni recinti, e che anche sincronizza il ritmo sonno-veglia, perché è spesso troppo buia, o ancora della pessima acustica, che acutizza il senso di spaesamento e l'incapacità di socializzare e induce anche a reazioni aggressive e a crisi di panico. Quindi, per concludere, i neuroscienziati invitano coloro che progettano e gestiscono gli spazi carcerari a essere consapevoli che spazio e architettura sono indicatori per chi è privato della libertà, della reale possibilità o meno di ricominciare una vita dopo. Questo è importantissimo. Quindi un periodo di detenzione umanamente svilente risuona nel sistema sensoriale come una condanna all'ergastolo, secondo le neuroscienze, indipendentemente dalla durata della pena effettiva. Scriveteci cosa ne pensate, redazione liberidentro, @gmail.com. E intanto un brano musicale, una bellissima Sky con Love Show. Ritrovati, dopo la pausa siamo con te, Antonella, con le nostre notizie dal mondo. Apriamo una finestra sulla Nigeria e parliamo di donne. Sì, Caterina, parliamo di donne nigeriane, ma in Sicilia in realtà. Perché nel centro storico di Palermo un gruppo di donne nigeriane ogni mese apre il suo banco alimentare rivolto alle famiglie di migranti africani. L'iniziativa è organizzata da Osas Egbon, 40 anni, e l'obiettivo è di aiutare chi non ha nulla da mangiare a causa della pandemia. E il progetto fa parte dell'attività del gruppo Donne di Benin City, fondato appunto da Egbon nel 2015 insieme ad altre donne vittime del traffico di esseri umani. Molte di loro infatti provengono dallo stato di Edo in Nigeria, la cui capitale è Benin City appunto, e sono state costrette a prostituirsi per estinguere il debito con i trafficanti. È una bellissima notizia di solidarietà, penso, no? Sì, è una bellissima notizia e soprattutto è un'organizzazione benefica che ha concesso al banco alimentare l'uso gratuito di due piccole stanze nel centro di Palermo. E all'esterno infatti un gruppo di donne, soprattutto nigeriane, prima l'abbiamo detto, principalmente sono tutte nigeriane, attende in fila l'apertura per la distribuzione dei prodotti alimentari. Questa è una situazione che si verifica praticamente quotidianamente. c'è un'atmosfera allegra, festosa, e alcune portano con sé carrelli, sacchetti, passeggini che riempiono di provviste. Insomma, diciamo che per fortuna non c'è un'aria mogia. E infatti nell'attesa c'è chi gioca con lo smartphone, chi chiacchiera, poi c'è questo misto linguistico che veramente è la festa della lingua, italiano, inglese, lingua Edo. E per tornare a Egbon, appunto, chi ha inventato questa realtà, lei vive in Sicilia da 19 anni e quindi ha cominciato a pensare di fare volontariato. Ma raccontami come è gestito questo centro alimentare, immagino su base volontaria, no? Infatti hai ragione, sono tutti volontari. Egbon usa i suoi contatti con le chiese e anche l'aiuto dei negozianti per raccogliere tutto ciò che può. E la sua organizzazione riceve anche il sostegno del Banco Alimentare, una importante associazione italiana che l'aiuta a procurarsi alcuni prodotti. E Egbon spiega che ogni mese riescono ad aiutare fino a 40 famiglie, penso un po', e non è poco, eh. Nei pacchi ci sono cose essenziali come olio, pasta, scatolette di carne, pomodori, insomma, tonno, queste cose insomma, poco deperibili. E in una stanza poi ci sono anche i cibi italiani come il parmigiano e il prosciutto. Però Egon ci spiega che sono poco popolari perché non tutti usano questi tipi di alimenti. E quindi spesso ci sono questi scambi tra gli italiani. E tra oppure tra chi sa cucinare italiano e chi invece preferisce altri tipi di prodotti. E infatti una donna nigeriana magari non sa cosa farsi del risotto che le hanno consegnato e il volontario italiano le dà alcuni suggerimenti culinari oppure fanno degli scambi. E tra le persone che ricevono i pacchi ci sono tante realtà, tante situazioni. C'è la giovane madre che è stata portata dalla Nigeria in Italia per fare la prostituta e che è riuscita a sdebitarsi con i trafficanti e poco dopo essere arrivata e aver incontrato il suo attuale compagno, per fortuna. E come molti migranti africani che vivono a Palermo, magari ha lavori occasionali. Quindi, insomma, sono tutte queste realtà veramente fragili che hanno bisogno di accudimento, di accoglienza. E tant'è che questa famiglia tipo di cui vi sto parlando. Non sempre riescono ad arrivare a fine mese e quindi sono costretti a rivolgersi appunto a Egbon per ottenere qualcosa da mangiare perché la saltuarietà lavorativa li costringe a questo. E poi c'è da aggiungere che Egbon gestisce anche una casa rifugio fuori città per le donne che cercano di sfuggire ai trafficanti. E lei stessa racconta di aver cominciato a distribuire scorta alimentare nel 2019, quando è cominciata la pandemia, si è trovata quasi a doverlo fare. E in più ricordiamoci anche che diversi immigrati non hanno i documenti e non possono accedere ai programmi di assistenza sociale, quindi la sua opera è stata ancora più necessaria. E 2 anni fa, circa il 33% dei 187.000 stranieri residenti in Sicilia proveniva dall'Africa, per esempio. Ma Palermo, città con una popolazione di 1.300.000 abitanti, gli immigrati irregolari sono molte migliaia in più rispetto a quelli censiti, per cui insomma aumenta vertiginosamente. Infatti la Sicilia è la regione con il più alto numero di arrivi, basta pensare a Lampedusa, insomma, per fare un piccolo esempio. Comunque, restiamo sempre in Italia, restiamo in Italia perché c'è il tricarico. Con la canzone Abbracciami Fortissimo, che è un abbracciare fortissimo tutte le persone che con Egbon lavorano su questo progetto. E dopo la canzone non andate via perché c'è ancora l'intervista di Caterina e Elisabetta Stocchi del Arriva Centro sì Asteria. uno, abbracciami fortissimo. Mi sembra un disastro, ma forse non lo è. Abbracciami fortissimo. E intanto le fa le valigie, aspira polvere, padelle, porta via anche quelle. Tanto io non mangio mai. Bussa quella porta del paradiso e abbracciami fortissimo. Se c'è ragione, certo, bruciare tutto, ok. Abbracciami fortissimo. E intanto lei fa le valigie, aspira polvere, padelle. Rieccovi di nuovo, continuiamo le nostre interviste sempre su Liberi Dentro Edu Radio e TV. L'ospite da alcuni giorni con noi è Elisabetta Stocchi del Centro Storia di Milano. Ciao Elisabetta e bentornata. Grazie, ciao a tutti. Centro Storia di Milano, in realtà io l'ho conosciuto grazie a un vostro ospite che è Franco Milone, ex detenuto che ho intervistato quest'estate, che mi ha fatto conoscere il centro. Quindi le interviste di Edu Radio sono così, sono una conoscenza chiama l'altra e io le racconto a chi ci ascolta tra la città e il carcere per l'appunto. Quindi ho il piacere di averti qui e, come dicevo ieri, parliamo di futuro, perché voi vi occupate di formazione, educazione verso giovani e non soltanto, e ovviamente l'educazione è per il futuro perché è un modo di seminare per pensare poi al futuro delle persone, alla loro costruzione della propria vita. Ma ti chiedo, in questo anno, in questi 2 anni ormai che sono stati quelli della pandemia, come è cambiato il vostro centro di cultura e formazione, che per definizione è un centro di aggregazione? Avete dovuto fare dei cambiamenti nei vostri modi di fare normali, ecco, di incontro, oppure no? Sì, veramente, assolutamente sì, e anche grossi, nel senso che il 6 febbraio del 2020 noi abbiamo festeggiato i 30 anni della Steria e li abbiamo festeggiati con un'immensa gratitudine per il Signore, per come aveva benedetto l'opera. Perché veramente era decollato tutto. Avevamo raggiunto degli obiettivi insperati con veramente una fruizione, una partecipazione, una condivisione con tanti, tantissimi insegnanti sulla progettualità, una partecipazione anche territoriale agli eventi dedicati al nostro municipio, come alla nostra città di Milano. E per cui veramente con tutta questa gratitudine del cuore pensavamo di vivere un anno intenso come quelli precedenti, se non di più, con la solita creatività data da tanti amici che danno il loro contributo alla Steria. Bene, un mese dopo eravamo chiusi, cioè tutto si era bloccato, la pandemia ci aveva tagliato completamente tutte le attività. Perché? Perché intanto c'è stato un primo periodo in cui per lavoro si poteva uscire e abbiamo capovolto un po' la nostra programmazione. Noi abbiamo dei costi che sono calmierati quando vengono in presenza e invece ci siamo messi a fianco agli insegnanti a titolo totalmente gratuito, però abbiamo chiesto ai nostri relatori una cordata di solidarietà, in attenzione a loro, agli insegnanti e soprattutto agli studenti, che anche loro subire l'insegnante francobollo parallelamente è una cosa molto impegnativa e pesante. Gratuitamente venite e manteniamo così questo, diciamo, servizio di conferenze, di testimonianze, in modo che gli insegnanti possano avvalersene e creare lì delle opportunità di riflessione che vanno un po' fuori dal seminato della pura lezione. Bene, hanno dato tutti l'adesione. Le prime settimane venendo qui, chiaramente facendo la conferenza e aprendo il dibattito in streaming. Per cui siamo attivati con i primi streaming che erano un Zoom, poi subito dopo abbiamo preso una piattaforma, poi subito dopo abbiamo capito che servivano delle telecamere per poter cambiare campo contro campo, perché sennò l'insegnante francobollo, il professore, il docente. Poi insomma, è stato un po' crescendo, ma all'inizio soprattutto è stato le conferenze, quel primo anno 2020. Lo abbiamo fatto poi in che modo? Prendendo tutte le conferenze di repertorio, facendole vedere, ma avendo poi l'insegnante, il docente, l'esperto, sempre disponibile alla fine della conferenza, aprire il dibattito con i ragazzi. Per cui i ragazzi da casa, perché erano a casa in DAD, potevano fare le loro domande, venivano poi somministrate e venivano date delle risposte in diretta. Questo dopo le prime conferenze, ci siamo resi conto che c'era una dimensione che poteva essere veramente superata in questo limite enorme, che era quella dello spazio. E allora abbiamo cominciato a proporre la cosa al di là dei nostri insegnanti, che già appunto sono numerosissimi, e aderivano, infatti abbiamo avuto più di 60.000 presenze in quel periodo là. Perché? Perché praticamente abbiamo proposto gratuitamente a tutta Italia. Io ho preso gli elenchi e l'abbiamo sparato in tutta Italia. Beh, l'insegnante era incominciato a rispondere. E allora lì abbiamo pensato, abbiamo visto un'opportunità dentro la drammaticità della situazione, che poi andava risposta anche a quello che dice Papa Francesco, cioè andare alle periferie del mondo. Il nostro carisma è quello educativo. I giovani sono il nostro, diciamo, la nostra pupilla, noi diciamo, dell'occhio, perché sono veramente la cosa più importante. Ma tutti quei ragazzi che sono in quelle scuole, che sono nelle città di provincia, che pur spostandosi, pur facendo un viaggio di 2 ore e mezzo come quelli che arrivano alla Steria, non avrebbero la possibilità di sentire una relazione, una conferenza, una testimonianza fatta apposta per loro. Caspita, è vero, non è in presenza, ma è in diretta. E in quel momento sta accadendo, e tu in quel momento puoi fare la tua domanda, tu puoi interagire con quell'esperto, che altrimenti non incontreresti mai. Bene, a quel punto si è aperto un nuovo orizzonte. Elisabetta, è legata a doppio nodo alla parola futuro, di cui abbiamo parlato, il futuro in particolare dopo la pandemia, perché ha cambiato tutti i nostri stili di vita, i nostri modi abituali di fare le cose, c'è chiaramente la parola speranza. E quindi se io dovessi chiederti, in base alle sfide che ancora vi aspettano, cosa ti immagini? Io mi immagino, spero che gli adulti, noi adulti, riusciamo a fare più rete, a fare più alleanza educativa. La speranza io la ripongo proprio in una consapevolezza profonda di noi adulti, dove nei confronti di ragazzi, di giovani, perché se tutti noi siamo stati feriti da questa pandemia, da questa esperienza così insostenibile, così di incomunicabilità o comunicazione appunto mediata, e in quanto adulti siamo più attrezzati. I giovani lo stiamo rilevando da più fonti, i nostri amici che lavorano nei vari microcosmi, i giovani, i bambini, i giovani, i ragazzi, gli adolescenti in modo particolare l'hanno sofferta veramente tanto, soprattutto la seconda lockdown. Dobbiamo riflettere che i bambini, le scuole primarie sono andate a scuola, la materna andava a scuola, le medie sono andate a scuola, qualche quarantena, ma ce l'hanno fatta. Le scuole superiori sono rimaste in DAD tutto l'anno. I genitori, sì, alcuni è vero che lavoravano con smart working, ma altri andavano a lavorare. E allora chi è che è rimasto a casa da solo, tra l'altro i media dicendo che erano gli untori? I giovani. In un'età dai 14 ai 18 anni, un'età dove l'incontro, la relazione, il confronto sono fondamentali, perché si sta formando la tua personalità e i tuoi sentimenti, le tue emozioni sono forti, dirompenti, e se non le metti ogni giorno in prova, rimangono congelate. Ecco, noi adesso riaprendo l'attività abbiamo visto questi giovani che sono impauriti, che hanno perso un periodo prezioso della loro vita, per ognuno è prezioso, ma per loro particolarmente. Per cui dobbiamo non guardare o guardare questa fragilità, ma metterci al servizio per aiutarlo, perché queste sono le risorse del futuro. Questa è l'Italia, se la vogliamo, per farla crescere, ma è l'Europa, ma è il mondo. Queste giovani generazioni noi dobbiamo aiutare. Infatti, il titolo di quest'anno del nostro progetto è Generare Futuro. Questo generare futuro, questo essere gravidi di una novità di vita, dobbiamo portarlo noi avanti, noi adulti, insieme con loro, per generare nuovi orizzonti. Non è come prima, non può essere come prima. Abbiamo delle generazioni che ci stanno interpellando sul futuro dell'umanità, sul futuro del pianeta. Lo dobbiamo fare in modo intelligente, non andando dietro gli slogan o dietro delle correnti che non aiutano un pensiero critico, ma insieme cercare le soluzioni, essere adulti propositivi, consapevoli della responsabilità che ognuno di noi ha. Ecco, la mia speranza è una comunità educante più consapevole. Elisabetta, è bellissimo ciò che dici, anche perché più volte noi lo ricordiamo anche su Liberi Dentro Duradio che tra le vittime nascoste di questa pandemia ci sono stati certamente i giovani, soprattutto nelle scuole superiori, ma anche dell'università, alcuni che non hanno mai visto l'università perché hanno cominciato magari nel 2020 e tuttora magari non sono tornati a lezione, ma ci sono anche le persone detenute. Su di loro, che sono molti sono i nostri ascoltatori, ritorniamo domani e intanto ti saluto e grazie Elisabetta. Continuate ad ascoltarci. Arrivederci a tutti. E rieccovi, bentornati per i saluti di fine puntata. Vi annunciamo le rubriche a seguire. Oggi che è giovedì ci sono le pillole di Antigone con gli auguri natalizi e poi la comunità educante con i carcerati, il CEC, che ci parlerà della relazione di sostegno tra il volontario e il recuperando, appunto, che fa bene a entrambi. Vi salutiamo, redazione Liberi Dentro, @gmail.com, sempre per scriverci e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Diana Bota e Nea Flacco. Ciao, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.